ancora più rapidi come quello del non REM, REM, e anche i ritmi molto lunghi come quello delle stagioni, e si sa che influenzano anche queste molte variabili biologiche, anche il tono dell'umore e così via. Antonio ci chiama da Salerno, buongiorno, 800 24 00 24, non uno ma ben due esperti pronti a darle una mano. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Volevo porre una domanda ai dottori. Allora, la prima cosa che il mattino riesco a carburare molto lentamente, mi risveglio molto lentamente. E poi adesso però è sveglio, vero Antonio? Sono le 11:52, sì. Ce l'abbiamo fatta. Per forza, sì, perché per il lavoro. Certo. E quindi carbura molto lentamente e poi? E poi anche se riesco a fare le mie 7 ore di sonno, non mi sento abbastanza riposato. Vuol dire che la qualità del suo sonno non è... Magari si fa dei risveglietti leggeri, manco se ne accorge. Allora, parte il cronometro, 30 secondi di risposta a Marco Maiola e 30 a Lino Nobili. Come possiamo commentare o aiutare il nostro amico? Per noi è un ristagno di energia, cioè le persone che hanno un vuoto di energia man mano che vanno avanti durante la giornata diventano sempre più stanche. Le persone che si svegliano stanche, piano piano che va avanti la giornata, mobilizzano questo ristagno, migliorano la loro qualità energetica col proseguire delle ore. Quindi bisogna cercare di sbloccare l'energia e l'agopuntura potrebbe essere una buona modalità. Mi piace. Dottor Nobili, vediamo che cosa ci dice lei. È una specie di gara, questa. Non... Se la stanchezza del signore, non sentirsi riposato, dura solo alcune ore dopo il risveglio, può ancora far parte di quella che si chiama inerzia del sonno. Se questa stanchezza rimane anche nel pomeriggio, per tutta la giornata, significa che c'è qualcosa nelle funzioni del sonno che non vanno, quindi c'è la qualità è alterata e bisogna approfondire. Allora, grazie, siete stati bravissimi tutti e due, vi ringrazio per essere intervenuti a Essere Benessere, ringrazio naturalmente i nostri ascoltatori, Carmelo Lauricella in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Per oggi è tutto, vi saluto, se volete scriverci, se volete venire a trovarci su Facebook, andare a vedere i nostri video, leggere il Daily Lab, insomma ci fate piacere. Noi intanto ci sentiamo domani, buona giornata a tutti pennuti. Essere Benessere.